Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. E buonasera, buonasera a tutti, vombati e vombattesse, eccoci di nuovo per un'altra diretta come tutti i giorni e come tutte le settimane, da quando è iniziata questa quarantena, alle 19 siamo qui per tenervi compagnia fino alle 21. Io sono Mario, l'introduzione ormai l'avete riconosciuta, sono i soliti ACDC, vediamo se intanto tutto funziona e diamo un attimo di volume. Sì, si direbbe che tutto stia funzionando e allora eccoci che partiamo con la puntata di oggi. Di cosa parleremo? Beh, un sacco di cose. Avremo tante voci, tante notizie, pochi approfondimenti, ma un sacco di attualità. Sentiremo contributi e voci da Firenze, da Roma, da Lampedusa, da Barcellona. Parleremo di iniziative letterarie, artistiche e solidaristiche che si svolgono qua nella nostra Firenze e non solo, condiremo il tutto con pregevoli musichette, ma prima di tutto vi voglio ricordare, come al solito, i modi con i quali potete rimanere in contatto con noi, ovvero andare sulla nostra pagina dalla quale probabilmente ci state ascoltando, ovvero wombat.noblogs.org. Sulla home della pagina potrete trovare un link per interagire con me durante la diretta. Cliccando su Diretta Wombat si aprirà un pad nel quale potete scrivere tutto quello che volete, e invece tutto quello che volete dire lo potrete lasciare come messaggio vocale alla messaggeria del Wombat. Sempre nella stessa pagina c'è il link al bottoncione rosso che cliccandolo potete avviare le vostre registrazioni. Ora piano piano col farsi della puntata mi sciolgo, ma ricordo anche che ci potete scrivere anche al nostro indirizzo mail postawombat@insiberia.net. Io ho tutto aperto qua davanti, quindi tutto quello che scriverete lo leggerò e risponderò magari anche. Va bene, ma come ci vogliamo giocare la puntata oggi? Direi di iniziare dalle notizie locali, poi andiamo su quelle da fuori Firenze e in seguito un po' di iniziative invece che si svolgono nei prossimissimi giorni o che sono iniziate da ieri. Dunque, domenica pasquale, ma non ho nessunissima intenzione di farvi il benché minimo accenno, tranne che con la prima canzone che sto per mandare, e si chiuderà qui quindi il mio contributo alla risurrezione del buon Jesus. Ci sentiamo subito dopo e viva Wombat! Alle pareti aspettava la redenzione dei peccati. I tolis peccata mondi vecchio come la casa di Tiziano, a pieve di Cadore nel mio sangue non c'è acqua, ma fiele che ti potrà guarire. Ci si illumina d'immenso mostrando un poco la lingua al prete che dall'ostia ci si sente in paradiso cantando dei salmi un poco stonati. I tollis peccata mondi miseri. Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Non sono sicurissimo che mi stiate ancora sentendo perché ho la connessione wifi molto molto ballerina, ma spero tanto tanto di sì. Dunque io vado avanti lo stesso, tenacemente, con la rassegna stampa. Iniziamo dalle notizie di Firenze e via. Iniziamo con una notizia già data per la verità la scorsa settimana, ma che sembra ancora importante ridare. È una questione che ci riguarda molto da vicino, sia come radio che come collettivi e spazi sociali fiorentini, visto quanto lunga è stata fino a qua una battaglia che non è finita, è quella per il nuovo aeroporto di Firenze. Perché? Perché la giunta regionale sta portando avanti il progetto di allargamento dell'aeroporto di Peretola. Una giunta che va avanti davvero alla faccia di tutti, alla faccia dell'emergenza del coronavirus e anche della giustizia amministrativa, che ha più volte bocciato questo progetto come contrario al pubblico interesse. Due settimane esattamente fa è stata approvata in tutta fretta una nuova variante al piano di indirizzo territoriale per lo scalo Amerigo Vespucci, appunto, di Peretola. E precisamente si parla di una nuova valutazione ambientale che è stata tirata fuori così dal cilindro nel tentativo di superare le 70 prescrizioni indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza già emessa il 13 febbraio scorso. Ricordiamo anche come questa impostazione progettuale sia stata già bocciata anche dal TAR della Toscana, e nonostante questo si sta andando avanti a spada tratta, lancia in resta, con la stessa linea di prima. In questo aggiornamento è stato presentato a tutti gli effetti anche un cronoprogramma che prevede l'approvazione entro il 2021 da parte del Consiglio regionale. Sono in molti ad aver denunciato tutto questo, alcune forze politiche di sinistra, oltre che i vari comitati e anche noi dalle frequenze e dalle pagine di questa radio. È quindi importante su questo stare senz'altro ancora allerta e attenzionare questa questione, perché ci sarà ancora da dare battaglia, eh? E certo anche noi non ci tireremo indietro. La seconda notizia di oggi è invece una buona notizia. La buona notizia, sempre da Firenze, è la bocciatura definitiva dell'inceneritore di Case Passerini, che è stata bocciata dal Consiglio di Stato, che per la verità sta a Roma, ma insomma la notizia ci riguarda. E, ecco, il Consiglio di Stato, con una sentenza di pochi giorni fa, ha ritenuto inammissibile il ricorso della società Q-Termo, che, cattivissima lei, tentava di rimettere in discussione l'annullamento dell'autorizzazione a costruire l'inceneritore. Questa è una notizia che per la verità è passata quasi sotto silenzio, ma a noi invece fa molto piacere dare, ed eccoci che infatti lo facciamo, vi teniamo aggiornati. Ad esempio, vi diciamo che con questa sentenza la Q-Termo è stata anche condannata al risarcimento delle spese processuali delle associazioni ambientaliste. Sono il Forum Ambientalista, Italia Nostra e WWF Italia, oltre che dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio. Quindi evviva, evviva, mille volte evviva per questa vittoria, che è stata ottenuta anche grazie, anzi direi soprattutto grazie, a tutti quei soggetti, movimenti, comitati, associazioni e singoli attivisti che contro gli impianti di incenerimento e a favore dell'ambiente, oltre che, come dire, della salute collettiva, si battono da anni. Terza e penultima notizia di questa prima parte la potrei intitolare così: droni su Firenze. Eh sì, magari avete letto, magari avete sentito, se non l'avete fatto ve lo dico io, sono infatti iniziati in questo fine settimana pasquale i controlli aerei sul rispetto delle misure di contenimento, controlli tramite l'utilizzo dei droni. Due droni, infatti, sono stati messi in volo per individuare eventuali assembramenti o persone che stazionassero in zone non consentite. In particolare un drone è stato utilizzato per controlli nei parchi dell'Albereta e dell'Anconella, dove è stata sanzionata una persona sorpresa mentre bellamente prendeva il sole, e un altro drone, invece, è stato fatto volare nella zona dell'Argingrosso, seguendo le sponde dell'Arno, sia da un lato che dall'altro, del viadotto all'Indiano. Qui è stata individuata e multata dai solertissimi agenti una persona che si trovava in strada in bicicletta senza un motivo preciso. Io non ricordo chi era che diceva che qui da queste parti non c'è niente di più duraturo dei provvedimenti emergenziali, ma cazzo se è vero. E allora noi, solo per completezza di informazione, solo per questo, lungi infatti da noi voler invitare ad azioni inconsulte, ci mancherebbe altro, dicevo, solo per completezza di informazione e amor di digressione, e anche un po' perché ci piace pure guardare in prospettiva, vi diciamo che ci sono in rete un sacco di proposte su come si possa abbattere un drone, ecco, e noi ve ne vogliamo raccontare alcune. La prima sono i jammer, che sarebbero dei disturbatori di frequenze, cioè degli aggeggi che praticamente rilasciano nell'ambiente migliaia di onde radio e che hanno lo scopo di sovrastare e bloccare i segnali di trasmissione, come quello appunto fra un comando e il drone. Sono in vendita su internet anche ad alcune centinaia di euro e sono dai più definiti il modo migliore in effetti per buttare giù o comunque per disinnescare l'intervento di un drone, perché infatti tanti droni hanno invece la funzione di ritorno, cioè nel momento in cui perdono la frequenza ritornano al punto di partenza. Comunque i jammer è il primo dei modi. Poi ce ne sono di più naturali, come per esempio le aquile. Sì, ci sono infatti addestratori di aquile che le addestrano, ci sono addirittura aziende che lo fanno, che addestrano aquile a intercettare ed abbattere droni, riconoscono il ronzio e poi li acchiappano con i loro artigli. Oppure un altro modo sempre naturale è quello dei piccioni. C'è infatti chi propone di adottare, nutrendoli, degli stormi di piccioni da far volare sopra un certo luogo per rendere così difficile a un drone compiere riprese in tranquillità. C'è poi un altro modo che ho trovato, è quello che consigliano, ma se posso sentirmi di aggiungere sconsiglio io, dei fucili a piombini. Lo sconsiglio perché ricordo che come un piombino sale, poi anche scende, chiaro. C'è poi il sistema cosiddetto della lenza da pesca, ovvero quella di stendere dei fili di nylon sfruttando alberi, tralicci o comunque quanto di più alto si possa trovare, creando così anche delle insidiosissime trappole per uccelli che in attesa che un drone ci passi intanto ci si infrangeranno contro a migliaia. Oppure, cos'altro ho trovato? Ho trovato il sistema dei drone kamikaze, ovvero il suggerimento di acquistare un drone economico da lanciare, da far schiantare contro un drone professionale, o ancora l'utilizzo dei puntatori laser che, se indirizzati contro la fotocamera del drone, possono accecare o addirittura bruciare il sensore visivo. E poi davvero c'è di tutto, cioè c'è chi propone di lanciare contro il drone rotoli di carta igienica o coriandoli, e c'è addirittura chi dice l'elicottero, perché in effetti drone contro elicottero vince elicottero, e sì, scommettiamo che è sicuramente vero. Va bene, questi erano alcuni dei modi trovati in giro per abbattere un drone, ma ripeto, sono dati soltanto a titolo informativo e ci mancherebbe davvero, davvero altro. Finiamo questa rassegna fiorentina con notizie non fiorentine, ma da una voce fiorentina che ormai i nostri ascoltatori, e come no, avranno imparato a conoscere. Infatti ritorna in grande spolvero, ritorna in realtà, non ha mai cessato, la rubrica domenicale del buon Antonio Probo, che ci racconta le sue assurde notizie. E dai, sentiamo Wombat. Buongiornissima Mela a tutti, ai radio, tali, spettatori, ai Mari, ai Wombati di tutti. Buongiornissima Mela da Antonio Probo, siamo qui 12 aprile 2020, domenica, consueta domenica, consueto appuntamento domenicale con la rassegna stampa che ci sta rendendo umilmente poco noti in tutta la provincia. Prima notizia della settimana, tratta direttamente da Contopiano, il nostro giornale preferito, come tutti gli altri. Andiamo, allora, con l'app UPOL i cittadini potranno segnalare alle autorità eventuali reati commessi in tempo reale, eccetto quelli sono stati commessi tra Genova e Bolzaneto, quindi non si può. Andiamo avanti, quindi seconda notizia tratto dal nostro giornale, sentite sicuro il sound tipico della cartaceità del Corriere della Cheta. Grandi progressi per il premier inglese Boris Johnson. I medici prevedono che già verso la fine della settimana tornerà a grugnire normalmente, quindi un grande abbraccio al nostro Boris. Terza notizia, ecco, sentite invece quanto scarteggia l'altro grande giornale, il fondatore grandissimo Giuliano Ferrara, che salutiamo, un doppio abbraccio, perché abbiamo circonferenza. Il figlio di Giuliano Ferrara, il giornale, quindi andiamo di cronaca, tragedia nel Barese, influencer di 37 anni muore a causa di un intervento di liposuzione. Come dalle volontà, la donna sarà seppellita dentro uno splendido vestito di Armani. Questo quindi ciò che succede nel Barese, ultimissima notizia della nostra trilogia, infatti siamo la quarta. Andiamo invece nel mondo dell'internet, il verso del Carlino, che ci dice, ecco, cosa succede in Umbria, che è una regione che insomma succedono delle cose. Perugia, bandiera della RSI, scoperta e rimossa dalla Digos. Ora sarà finalmente libera di fare un bel giro nei social, quindi insomma, ben venga. E niente, da redazione Antonio Probo è tutto, credo che questa qui sia l'ultima rassegna stampa, perché non so perché dovremmo davvero continuare. E arrivederci, ciao Mario e ciao a tutti quelli che non si chiamano Mario. Sì, bandiera dell'RSI che io immagino dopo aver fatto il giro dei social poi potrà stazionare tranquillissimamente accanto a tutte le altre che si troveranno certamente nella caserma. No, ma cosa dico? Bene, comunque c'è chi mi scrive, chi a proposito del sistema di abbattimento dei droni, e mi dicono a proposito di sbirri che le aquile invece sono usate dagli sbirri, quindi non erano rimossa il consiglio sulle aquile, non ci stanno per niente più simpatiche come strumento. Invece l'altro mi piace parecchio, la fionda, stesso problema dei fucili a piombini, non lo so, sicuramente ha un che di riottoso che ci affascina molto molto di più che il fucile a piombini. L'elicottero, mi scrivono, invece è troppo facile. Sì, sono d'accordo, l'elicottero è decisamente troppo facile, anche perché probabilmente secondo quella logica vale un po' tutto quello che è grossissimo. Va bene, ma adesso direi che è il caso di mettere un pezzaccio. Ci risentiamo fra 3 minuti con le notizie da fuori Firenze. Avremo voci e contributi assolutamente interessanti, quindi rimanete qui connessi che la situazione si fa seria da ora in poi, dai. Se voglio rivedermi vivo pago il rischio. scatto. Se non ti vado liscio, prova con ghiaccio. Non ho creduto a niente se non al palco e al testo stop. Rieccoci. Vedo che è abbastanza appassionato la questione dei droni. In effetti mi ha appassionato anche a me. C'è chi mi scrive Fionda prima scelta. Sono decisamente d'accordo, sì. Mi sono innamorato anch'io della tecnica della Fionda. C'è chi scrive ma anche l'arco non è male. È vero. Arco e frecce davvero niente male. Sono sicuramente migliori le tecniche che stiamo tirando fuori adesso rispetto a tutte quelle trovate su internet. Fra l'altro, no ma vabbè, a questo ci arriviamo dopo. Sì, dai. Ricordo intanto che chi vuole può contattarci, anzi sono ben contento se lo fate scrivendoci a postawombat@insiberia.net o più semplice ancora scrivendo sul pad di Rise Up, lo si può trovare direttamente nella home del sito wombat.noblogs.org. Cliccando lì sul link si può scrivere cose che leggerò. Quello sentito poco fa era un pezzaccio di Giovanni Succi con ghiaccio, a me piaceva parecchio. Adesso però andiamo fuori da Firenze, via. Partiamo con il primo contributo che ci arriva da Barcellona. Abbiamo infatti raggiunto a Barcellona Sara Pierallini, che è militante del sindacato CNT e che fa parte fra l'altro di IAF Italia, oltre a essere attiva in varie lotte e mobilitazioni che si stanno svolgendo attualmente a Barcellona. Ecco, a lei abbiamo chiesto di dirci un po' com'è la situazione a Barcellona e anche il mondo dei compagni, come si sta organizzando in questo momento, quali questioni segue, cosa fa e come, e ascoltiamo quindi che cosa ci dice. Ciao. Sono Sara e volevo ringraziare Radio Wombat per lasciarmi questo spazio politico per raccontare la situazione qui a Barcellona. E qui a Barcellona io faccio parte di un sindacato anarchico che si chiama FNT, un sindacato storico che ha fatto appunto la resistenza in Spagna durante la rivoluzione spagnola e sta continuando ancora con campagne e lotte, e soprattutto in questo momento dove la situazione a Barcellona è grave, esattamente come in moltissime parti del mondo. E infatti abbiamo ospedali collassati, l'aumento della disoccupazione con ERTE e despidos, che appunto è licenziamenti. Quindi nascono altri problemi che si legano a questo, che sono il problema per esempio del pagarsi semplicemente l'affitto e ancora più in là del pagarsi da mangiare. Sta aumentando lo stato di militare di Barcellona, ma di tutta la Spagna, e con l'aumento dei militari nelle strade e nello spazio pubblico aumenta anche la violenza della polizia. In particolare la violenza della polizia incide a seconda del genere, del colore della pelle e della classe. La quarantena, l'isolamento forzato, infatti è completamente differente se prendiamo in considerazione questi tre fattori. Qui a Barcellona hanno dimezzato sia l'orario delle mense sociali che il numero delle mense aperte. Quindi non solo non siamo libere di attraversare lo spazio pubblico, ma allo stesso tempo vengono multate e espulse le persone che vivono per strada, dalle piazze. E tutto questo ovviamente viene fatto in nome della sicurezza e della prevenzione. Quindi ovviamente si sta vivendo un binarismo ideologico: chi sta dentro, chi sta fuori, il privato e il pubblico. Chi vive al margine di questo binarismo, come le persone che occupano, le persone tra virgolette illegali, vivono la violenza delle forze dell'ordine in maniera più forte, ovvero la violenza dello Stato. E ultimamente questo limite è stato passato. Infatti 2 settimane fa 7 poliziotti si sono permessi di entrare in una cooperativa di vivienda, una cooperativa abitativa che si chiama La Diversa, quindi una cooperativa legale, e dopo aver umiliato le ragazze che prendevano il sole sul balcone le hanno sanzionate. Questi atti di violenza sono numerosissimi e si fanno sempre più forti con la comunità migrante. 3 giorni fa hanno multato per la seconda volta la rete antirazzista di Barcellona, colpevole per distribuire cibo a centinaia di simpapeles. Chi può restare dentro le condizioni stabilite dal potere vigente si chiude e si isola nelle proprie case. Lo spazio privato infatti si converte erroneamente in uno spazio sicuro, ma lo spazio domestico, che è vissuto da tutti i generi, rispetto a altri, rispetto al maschile, dalle bambine, dai bambini, dalle persone anziane, dai disabili, è allo stesso tempo sia un rifugio che una prigione. Ed è lo stesso spazio dove statisticamente questi soggetti soffrono più abusi. Quindi si passa dal discorso del potere sulla sicurezza, alla prevenzione, alla responsabilità civile. Qui si fa moltissimo appello alla responsabilità civile, quando è la civilizzazione stessa il primo dispositivo di biopotere per il controllo dei nostri corpi. Ora, la diffusione del virus, del Covid-19, è sì un pericolo, ma la responsabilità più che civile deve essere, a mio parere, prima personale e poi collettiva, perché è importante organizzarci e prendere misure sanitarie e politiche noi, a livello comunitario. Qui a Barcellona, infatti, si sono create reti di appoggio mutuo e le abbiamo divise per quartiere, e dai quartieri che sono decisamente grandi, no? Che possono essere grandi quanto una piccola città toscana, li abbiamo divisi per strade, per contrade, se si potesse dire anche così, penso che sia, diciamo, che si possa rendere più l'idea, dove l'appoggio mutuo qui serve per sopravvivere alle violenze strutturali di questo sistema, a partire da quelle generate dall'eteropatriarcato, e infatti siamo attive anche con, dentro di queste reti di appoggio mutuo, siamo attive anche con i collettivi femministi, non solo con i sindacati, che li chiamiamo rivoluzionari, e siamo attive per proteggerci dalle violenze domestiche, ci organizziamo con punti di raccolta viveri e abbiamo reti di cura. E queste reti servono anche solo per suonare al campanello e vedere se ci sei, per sapere come stai, per sapere se vivi o sopravvivi. Infatti, da una parte la responsabilità civile, ok, abbiamo questa parte a cui si appella il potere all'isolamento, fa sì che poi ne consegua una militarizzazione dello spazio pubblico, mentre dall'altra parte, con la responsabilità collettiva, facciamo appello al potere della relazione e a quello dell'auto-organizzazione. Ci togliete il lavoro? Siamo precari? Dobbiamo pagare un affitto? Bene. Qui, dal 1° di aprile, abbiamo iniziato uno sciopero degli affitti, dove ci riappropriamo dei nostri spazi e li ritrasformiamo a livello politico. È diffusissimo in tutta Barcellona, siamo sui tetti, facciamo striscioni, ci organizziamo collettivamente e non paghiamo più gli affitti. Chiaramente è troppo presto per vedere se possiamo avere delle vittorie, però sì che già si sono fatti vedere i primi successi. In alcuni casi sono già stati abbassati, per esempio, gli affitti di alcuni appartamenti. Quindi per me l'importante è ricordarci che abbiamo dei corpi, perché i corpi sono spazi politici e questo ci aiuta a capire che non possiamo sovvertire l'attuale sistema delle cose solo dentro lo spazio cibernetico, anche perché dallo spazio cibernetico ne sono esclusi i margini della società, che sono sempre quei margini che possiamo vedere tutti i giorni, che ne possiamo sentire le notizie alla radio, che seguono stando lì, che rompono la coerenza legale, e stando nella frattura che c'è tra lo spazio pubblico e quello privato, rompendo con questo binarismo ideologico. Quindi pubblico e privato si convertono in dispositivi biopolitici e in biopolitica per il controllo di questi corpi insurgenti, insurgenti in quanto sono già illegali. Quindi sto parlando di persone sin papeles, di rifugiati e di persone povere, persone che appunto, come molti di noi, sono costretti a una precarietà, sono però persone più in là che veramente non hanno documenti, persone che non possono mangiare. Quindi torno a parlare di politica e torno a parlare di politica al margine della responsabilità civile. Quindi per me è molto importante, e lo vedo, che qui a Barcellona è un successo, nella tragedia anche che stiamo vivendo, il fatto di avere una posizione attiva nello spazio, perché crea il possibile e l'alternativa. Attraverso queste reti ritorniamo a scoprire l'importanza della materialità oltre il mondo virtuale. Se c'è violenza domestica, maschilista, razzista, rispondiamo risignificando le relazioni in presenza. Quindi, per terminare, vorrei dire, cerchiamo di essere civilmente responsabili, organizziamoci, lottiamo, responsabilizziamoci personalmente e collettivamente. E rispondiamo, se possibile, all'isolamento con reti che rompono con la militarizzazione e con la normativizzazione dello spazio pubblico e privato. E facciamo vedere anche la nostra potenza e il potenziale di queste comunità impreviste, perché stiamo formando qualcosa di nuovo che speriamo possa poi formare il mondo dopo il Covid. Grazie ancora. Grazie, grazie, grazie a Sara, che fra l'altro risentiremo la settimana prossima, domenica prossima, assieme a Federica Tommasello, perché sono due delle curatrici, anche autrici, del libro La natura dell'economia, femminismo, economia politica, ecologia, che è uscito da pochissimo per Derive a Prodi. Le raggiungeremo nei prossimi giorni a telefono e chiederemo loro di cosa tratta questa recente pubblicazione. Quindi su questo appuntamento a domenica prossima. Una battuta sulla questione degli affitti, che accennava anche Sara nel suo contributo. Ricordo che Bricco Baldo negli scorsi giorni ha raggiunto a telefono invece il coordinamento universitario Link, oltre ad Asia USB, l'associazione degli inquilini e degli abitanti. Ha parlato con Federico e anche con Sara Gainsforth, che è autrice di Airbnb, Città Merci, un altro libro di Derive a Prodi. Tutti questi contributi e quindi quali lotte su questo tema si stanno svolgendo oggi in Italia si possono trovare scorrendo un po' indietro nei post sulla pagina della radio. Mi segnalate poi qualche problema di internet? Sì, lo so, oggi va così. È saltato per un momento l'intervista. La si potrà comunque riascoltare per intero, senza spezzettamenti, a partire da stasera, quando sarà caricata sul podcast della radio. E continuiamo questa rassegna, diciamo, extramenia, del Fuori Firenze, andando verso sud, e da Barcellona andiamo a Roma perché ieri mattina, 11 aprile, Il quartiere di San Lorenzo ha voluto dare un suo ultimo saluto a Salvatore Ricciardi, ex prigioniero politico e voce storica di Radio Onda Rossa, che era scomparso due giorni prima, fra l'altro cadendo durante una manifestazione in sostegno ai carcerati. Ecco, dalla camera ardente che era allestita dentro l'ospedale, il feretro ha attraversato le strade del quartiere, è passato sotto la sede di Radio Onda Rossa in via dei Volsci, e lì un corteo spontaneo di compagni e compagni lo ha seguito, rispettando i distanziamenti, muniti di mascherine, anche vista l'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus. E in corteo sono giunti i compagni sotto le mura aureliane del quartiere per lasciare una scritta sui muri in suo ricordo, che dice: ciao Salvo, odio il carcere. In quei momenti sono poi giunti anche sul posto gli idranti della polizia, gli agenti in antisommossa, chiamati per reprimere l'iniziativa in nome del divieto di assembramento imposto dall'emergenza. I compagni e le compagne presenti sono stati tutti identificati. Si possono anche trovare dei video, fra l'altro molto toccanti, di questo. Li ho visti sui social. C'era una responsabilità, voglio dire un senso di responsabilità assolutamente chiaro da parte dei partecipanti. La distanza era e come rispettata, quindi sembra proprio un provvedimento arbitrario. Ad ogni modo, da Roma una compagna di Radio Onda Rossa ha risposto alle domande di Radio Onda d'Urto, che in quel momento era Radio Onda d'Urto da Brescia, che era in diretta, ha contattato Radio Onda Rossa e ha registrato un contributo davvero in presa diretta che racconta di quanto è accaduto. Lo rimandiamo volentieri. Allora, un saluto a Brescia, ai compagni e compagne di Onda d'Urto. Allora, un po' come avete saputo, avete già mandato un salvietto corrispondente, è morto Salvatore Ricciardi, compagno, vabbè, soprattutto anche di Radio Onda Rossa, storico, non solo, insomma, negli ultimi 20 anni e passa, aveva frequentato la radio, faceva una trasmissione contro il carcere e tanta attività politica contro appunto il carcere. Questa mattina a Roma hanno concesso la camera ardente, per cui c'erano 3 ore di camera ardente aperta al Policlinico per un saluto, e poi insomma, come compagni e compagni di Roma, avevamo deciso di farlo passare il feretro sotto la radio come saluto, ovviamente alla sua radio e anche tra le compagne e compagni, perché molti comunque non se la sentivano di andare dentro al Policlinico. Ovviamente dentro l'ospedale, eccetera, con le dovute misure ovviamente di distanziamento, mascherine, cose, insomma, sappiamo che c'è un'emergenza Covid e via dicendo. Quindi è stato fatto questo saluto, sulla messa internazionale di Fortini, che gli piaceva tanto, e poi si è voluto fare una scritta, alcuni hanno voluto fare una scritta qui sempre a San Lorenzo: ciao Salvo, odio il carcere. E niente, nel frattempo che veniva sempre messa la scritta, io dico, poche persone, sempre molto distanziate, non è che si parla di assembramenti, visto, insomma, la gente non è stupida e cioè, sappiamo quello che sta accadendo. E niente, sono arrivati con gli idranti, è arrivata la polizia con gli idranti, 5 blindati, i carabinieri, altri 3 blindati, tutti quanti hanno chiuso il quartiere San Lorenzo identificando tutte le persone che più o meno stavano vicino alle mura di San Lorenzo a fare questa scritta. Adesso hanno identificato tutti e praticamente hanno lasciato le persone andare, ma non si è capito bene, insomma, questa decisione, anche voglio dire, di una scritta, sarebbe bastati 5 minuti e la gente sarebbe andata via, invece hanno deciso comunque di blindare un intero quartiere. D'altronde a Roma, insomma, questa è la Sono arrivati immediatamente gli idranti e hanno bloccato, quindi... l'idrante, cioè la prima cosa che è arrivato, blindato enorme con gli idranti, e poi vabbè, sicuramente loro si erano già preparati, perché poi il saluto, ripeto, il saluto alla camera ardente era pubblico, essendo lui non morto di Covid, la camera ardente non era chiusa. quindi era aperta. Quindi da lì il feretro è uscito e è passato qua sotto, ma lì tutto insomma sarà durato 10 minuti, un quarto d'ora, quindi anche la scritta insomma non è che fa una scritta, non è che ci stanno a parlare due ore di assembramento in un sabato di Pasqua dove vi dico c'è più fila per fare una macellaia che per fare una scritta, quindi veramente non so voi come state, ma qua ci stanno file chilometriche davanti ai macellai da giorni e giorni. Ovviamente questo è quello che succede, che anche i morti si possono salutare, ma questa cosa già l'avevamo capita, già è stata detta più volte, e non salutare i morti è insomma, comunque una cosa brutta, cioè, diciamo, visto che già non si possono accompagnare in ospedale perché non si può entrare in ospedale, già non si può fare delle cose pubbliche di salute eccetera, per di più così, ma vabbè. Questo è quanto al momento. Questo è il momento, ma questo secondo me è quello che noi ci si dovrà aspettare insomma da qua ai prossimi almeno un anno e mezzo, perché io non penso che questa cosa insomma cambierà molto, perché la questione degli assembramenti, delle cose, con tutte, ripeto, siamo all'aria aperta, a Roma non c'è l'obbligo delle mascherine, ma chiedono la mascherina, e cioè stiamo a parlare di poche persone, cioè insomma, mi è sembrato anche abbastanza eccessivo. Anche gran caso, evidentemente non c'hanno niente da fare. Evidentemente la gente qua, cioè, evidentemente certo. Non c'è niente da fare. Ci risentiremo, Cristina, al momento sì. Rimangono, cioè, preso documenti, insomma, bisogna capire identificati. Sì, hanno finito, no, ma è finito. Rimane un po' il quartiere blindato, ma i blindati sono andati via e hanno lasciato tutte le persone. Chiarissimo, grazie, a presto. Vedremo che succederà con le multe, cioè. Vedremo, teniamo monitorati. Grazie intanto, bene, ciao, presto, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Questa era la voce di Cristina di Radio Onda Rossa. Ringraziamo anche i compagni di Radio Onda d'Urto di Brescia per aver raccolto questo contributo e ci associamo ovviamente mandando un abbraccio ai compagni della radio, agli altri compagni, oltre che ovviamente alla famiglia per la scomparsa di Salvatore Ricciardi. Passato una vita da militante fra i ferrovieri, poi nel movimento, prigioniero politico, di nuovo nel movimento, insomma, poco da dire. Scendiamo infine ancora più a sud, nel mezzo del Mediterraneo, raggiungiamo raggiungiamo però Giacomo, che è un compagno del collettivo Ascausa di Lampedusa. In diversi, fra cui alcuni compagni fiorentini, gli hanno chiesto com'è la situazione attualmente lì. Lui ha risposto a tutti, insomma, con un video comune. Noi mandiamo l'audio e ecco la voce da Lampedusa. Come va adesso a Lampedusa? È questa la domanda che è stata fatta. Alcune breve considerazioni rispetto a quello che sta accadendo, perché alcuni mi scrivono, mi chiedono cosa accade a Lampedusa eccetera, anche da fuori dell'isola. Allora, la cosa secondo me è semplicissima, non ci sono grandi ragionamenti da fare su questo momento. Lampedusa ha una carenza di strutture sanitarie e di strutture anche di altro tipo, e già in tempi normali di ordinaria amministrazione si fa fatica a venire incontro alle esigenze di chi vive su quest'isola. Non mi riferisco solo ai malati di tumore, non mi riferisco solamente alle partorienti che devono partire, ma mi riferisco spesso a delle semplici fratture o delle veramente le cose minime che purtroppo il sistema sanitario locale non riesce a venire incontro appunto a queste esigenze. Ora, in questo momento, rispetto alla questione delle migrazioni, la cosa è semplice: qui non, in questo momento non può arrivare nessuno. Mi sembra una cosa di buon senso, non c'entra né questioni politiche né ideologie, né proprio una questione pratica, perché l'isola non ha le strutture adeguate e né tantomeno l'isola è pronta a ricevere persone in questo momento, ma persone né che siano migranti, che siano turisti in questo momento, che siano di altro tipo. Dico, la cosa penso sia chiara, sia trasparente e limpida, non c'è niente da aggiungere su questo. Mentre c'è da aggiungere, e quindi il punto è chiaro, qui non può arrivare nessuno, che vengano le persone trasferite, le persone migranti, in luoghi sicuri per loro e per le comunità che li ospitano. Questo penso sia di facile comprensione a tutti. Mentre sulla questione del lungo termine, lì va fatto un ragionamento, e mi rivolgo ai lampedusani e alla lampedusana. Qui se non chiude l'hotspot e non si fa una lotta seria, uniti tutti, per l'apertura di un ospedale e per la smilitarizzazione dell'isola, che ricordiamo è un avamposto della NATO nel Mediterraneo, noi ci ritroveremo ciclicamente a fare questi discorsi e a scannarci tra di noi, che è assurdo. Ora, le vedute rispetto alla questione delle migrazioni possono essere diverse, e non è un problema, io non ho problema a parlare con chi la vede diversamente da me. E noi, ad esempio, come collettivo Ascauso, abbiamo sempre mirato alle cause che spingono queste persone a partire, abbiamo sempre mirato alle politiche dell'Unione Europea che hanno impedito queste molte persone di viaggiare in maniera regolare, abbiamo sempre puntato alle leggi sul lavoro che hanno bisogno di mano d'opera schiavizzata. C'è chi non lo fa, perfetto, non tutti dobbiamo essere d'accordo su questo o andare a fare un'analisi di questo tipo rispetto poi alle problematiche locali. Però sulla chiusura dell'hotspot, sulla costruzione di un ospedale e sulla smilitarizzazione dell'isola dovremmo essere tutti d'accordo. Dovremmo essere tutti d'accordo. Purtroppo ci sono interessi grandi e piccoli che hanno impedito in questi anni di concentrarci come comunità su questi aspetti. Ora, questo momento forse può servire anche a riflettere, ad unirci rispetto a questi temi e altri temi che dovrebbero essere uno su tutti, la gestione dei servizi di base sull'isola, parlo della nettezza urbana alla produzione e distribuzione di acqua e energia elettrica. Noi da anni abbiamo portato avanti delle battaglie rispetto a questo, da soli, in solitudine, ma non è un problema, dico, noi continuiamo, però se non c'è la coesione della comunità attorno a questi temi, noi ci troveremo sempre ciclicamente a parlare delle stesse cose. Io ricordo, ormai sono più o meno 15 anni che sono attivo rispetto alle questioni dell'isola, mi ricordo sempre gli stessi problemi e sempre le stesse discussioni e sempre gli stessi interessi che hanno impedito poi l'avanzamento per tutta la comunità rispetto alle questioni più semplici, che può essere appunto l'accesso alle cure mediche o piuttosto a dei servizi di base dignitosi. Ancora oggi, ad esempio, i netturbini non ricevono regolarmente lo stipendio. Ancora oggi abbiamo discariche di amianto in giro e nessuno fa niente, abbiamo subito l'incendio della discarica per più volte e nessuna istituzione ha fatto niente, e molti di noi lampedusani purtroppo hanno accettato passivamente questa situazione. Detto questo, ribadisco che la posizione mia e anche del collettivo Ascauso, credo, anche se in questo momento non abbiamo avuto modo di confrontarci molto rispetto a tutto, però credo che sia di buon senso questo, in questo momento di questo tipo di emergenza così grave e così particolare, sull'isola non dovrebbe arrivare nessuno e tantomeno quelle forze dell'ordine che possano avere contatti di vario tipo dovrebbero, diciamo, circolare in maniera da poter appunto entrare in contatto con altri isolani. E poi sul lungo termine, ripeto, noi dobbiamo lottare per chiudere l'hotspot, per smilitarizzare l'isola, per avere un ospedale e per essere noi prima di tutto a rispettare questo territorio che purtroppo non rispettiamo, che purtroppo abbiamo inquinato, che purtroppo continuiamo ad inquinare, ognuno, diciamo, però complice di questo, dobbiamo ricordare, è la gestione dei servizi di base, perché secondo me se ci fossero delle regole chiare e dei servizi che funzionano in maniera adeguata, sarebbe molto più semplice avere cura del territorio. Fino a quando questo non avverrà, dobbiamo essere noi a prenderci cura del territorio. Per cui io il mio invito è a questo, a unirci per chiedere queste cose. Eh sì, ci siamo, eccoci di nuovo. Bene, per completare vorrei ricordare quello che mi stanno facendo notare qui sul pad, e lo ripeto ben volentieri, che il 12 aprile del 1909 arrivava negli Stati Uniti Sacco, anarchico giustiziato nel 1907 dopo un processo farsa insieme a Bartolomeo Vanzetti. Sì, lo ricordiamo davvero volentieri anche noi, questo anarchico piemontese che fino agli anni 70 poi rimase colpevole, pur non essendolo, per l'omicidio di una guardia e di un contabile, credo. Sì, dai, facciamo un attimo una pausa, mettiamo una canzone, ci risentiamo fra poco, ma ci avviciniamo a Firenze, ritorniamo un po' in terra natia, ma poi natia, che cazzo vuol dire? Fra l'altro non lo è per quasi nessuno di noi qua della radio, ma vorrei mettere una canzone di un gruppo aretino che fra l'altro si chiama Osaka Flu, e beh, oltre a avvicinarci mi sembra anche tristemente adatto allo scopo. Si chiamano, la canzone si intitola Gina, ah, è un pezzaccio. Gina, vorrei scrivere il tuo nome con la vernice sopra il muro, ma sono un cane a disegnare, allargherei il buco della zona. Gina, ti baciavo alla stazione sopra quella mattonella, mi parlavi del tuo cuore mentre ti fissavo il culo. Gina, ti regalerei un cappello di moschino a righe blu, ma l'ha cucito un minorenne in un capanno a Prato. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Sì, lo volevo fare prima, me ne sono dimenticato. Volevo ricordare che poco fa, oggi, un gommone si è rovesciato a largo delle coste di Tripoli e a bordo c'erano un'ottantina di persone. Niente, per ricordare anche che il governo ha preso il coronavirus come pretesto per chiudere tutti i porti e, fra l'altro, forse vale la pena ricordare anche come in realtà il virus in Africa sia arrivato proprio dagli italiani. Va bene, ci siamo riavvicinati a Firenze per dire cosa? Innanzitutto una cosa che mi è stata scritta poco fa e che trovo eccezionale, incredibile. Allora, l'anagramma di 2020 è multe e divani. L'ho provato, è vero, adesso ho la penna in mano, sentite? Funziona, è vero. È l'anagramma di 2020 è multe e divani. Superlativo. La coincidenza, voglio dire. Ma di cosa parliamo adesso? Intanto direi della mappa della solidarietà fiorentina, perché da un paio di giorni gira su internet una mappa che raccoglie diverse iniziative di solidarietà che erano già attive in vari punti della città e sono iniziative di supporto a chi possa aver perso il lavoro, abbia difficoltà economica, ma in generale chi abbia, anche più in particolare voglio dire chi abbia bisogno di aiuto per fare la spesa o commissioni. Brevemente si può ricordare che in polveriera, in centro è attiva la polveriera Spazio Comune, nella zona dell'Oltrarno il riferimento è il laboratorio di Laddarno e l'occupazione di Via del Leone. Le brigate di solidarietà popolari sono invece attive a Novoli, così come a Rifredi troviamo l'occupazione di Viale Corsica e i Rude Boys Rifredi. Per la zona delle Minime di Coverciano si può fare riferimento al Fondo Comunista, per Gavinana e Campo di Marte invece ci si può, fino alle Cure ci si può rivolgere al CPA, così come la zona Grassi, Nantella, Bagno a Ripoli è coperta, diciamo, da mondeggi. Non solo, ci sono altri compagni attivi in altre zone della città, si può direttamente contattare i numeri che si trovano sul volantino che in questi giorni sta girando e chiedere direttamente tutti i giorni dalle 10 fino a sera. Non dovrebbe ancora esserlo, ma sarà pubblicato a brevissimo sul sito anche resistenzefirenze.noblogs.org. Infine, voglio ricordare, anzi voglio proprio leggere l'appello dell'iniziativa letteraria fantastica che hanno lanciato ieri da Frittole. Chi ha sentito la puntata di ieri della diretta sa già di cosa sto parlando, chi non ha sentito, si tratta di un'iniziativa letteraria pensata per dare spazio all'immaginazione degli ascoltatori qua della radio, ma ovviamente anche non solo, quindi spargete voce. Quello che chiedono sono racconti, scritti o altri contributi, insomma, di questo tipo, attorno a una traccia che dice questo: ascoltando le tue più deliranti premonizioni o le più razionali previsioni, dici che cosa ci riserva il futuro. Leggiamo, anzi direi, l'appello che è stato fatto, la chiamata. L'iniziativa si chiama E verrà il D, ho levato la musica un po' troppo presto. L'iniziativa si chiama E verrà il D e eccola. Sei così ottimista che tutti ti infamano? O credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente? O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile?

che ha fatto questo minchia di virus? Forse i nani da giardino, oppure i russi o dei cinesi, per un complotto degli obesi, che vogliono fare fuori il mondo, per poi mangiarsi tutto loro. Io non mi fido della televisione, ma solo dell'autocertificazione. Mi sto rompendo il cazzo, ti giuro che collasso. Il calendario è troppo lungo, mi sta crescendo pure un fungo. Magari è buono da mangiare, magari mi può far volare. Mia figlia non farà la sua maturità, ma ciò che conta è l'autocertificazione. La Juve vincerà anche la Serie A, perché ha firmato l'autocertificazione. Il mondo cambierà, la noia passerà, se avrai stampato l'autocertificazione. L'estate arriverà, il virus se ne andrà, ma avremo ancora l'autocertificazione. Favolosa, bellissima, bellissima, la trovo bellissima. Autocertificazione di The Dog, io sto veramente, veramente volando. Sono tornato indietro a 15 anni fa, me la sto stragodendo e adesso metto i pancreas, cazzo. All'improvviso si sfoggia un bel sorriso, è solo col buon viso che si può giocare. Due, la scelta del prodotto, qualcosa che sia ghiotto, gustoso, conveniente ma ridotto. Terzo, si studia l'etichetta, si stacca la linguetta, possibilmente fatto in tutta fretta. Quarto, si fa un respiro forte, si passa tra le porte, solamente allora potrei dir funziona, non suona. Forse per l'eccessiva fretta non vado all'etichetta, conseguentemente alla linguetta. Quindi ripasso tra le porte, respiro meno forte, ma sento che qualcosa non funziona. Suona! Che pacco! Le mani nel sacco! Wombat. All we hear is Wombat. Radio Wombat. Radio Wombat. Radio Someone Still Loves You. Sì, sì, l'ho visto che vi sono piaciute le ultime canzoni, mi fa super piacere, anche a me mi piacciono parecchio. Ma torniamo a noi, avevo parlato di iniziative letterarie e di iniziative artistiche, dividendo così arbitrariamente le due cose. È il momento per la categoria artistiche e infatti voglio parlarvi adesso di un'iniziativa della CAT, della cooperativa sociale, che fra l'altro abbiamo già sentito nelle ultime due domeniche. Alcune iniziative della CAT tuttora attive sul territorio sono state intervistate qui dai microfoni di Radio Wombat. Quelle interviste si possono al solito ritrovare scorrendo un po' indietro nel sito. Ah, una parentesi, ha risolto Briccobaldo, grazie, ce l'avete fatta. Briccobaldo è tornato fra noi con gli apostrofi, trattini, eccetera. E invece riprendo un attimo l'iniziativa della CAT, perché anche inizia domani mattina. Infatti la CAT, assieme a vari street artist fiorentini capitanati da Ninjaz e Exit Enter, hanno organizzato un'asta di beneficenza per la cooperativa CAT, ricordiamo attiva dall'85, si occupa di marginalità in vario senso, migranti, accoglienza, prostituzione, senza tetto, inclusione sociale, eccetera. Attualissimo e necessario più che mai in questi giorni difficili il loro lavoro, come infatti abbiamo sentito nelle scorse settimane. Io la vorrei introdurre, ma francamente il buon Briccobaldo, che ha raggiunto ieri a telefono Ninjaz, ha detto tutto lui, ha fatto dire tutto a Ninjaz, e allora senza altro trattenervi vi mando direttamente questa telefonata registrata e ci spiegano bene loro di cosa si tratta, prontissimi fra l'altro, perché durerà 26 ore da domani mattina fino al giorno dopo. Allora, ai microfoni di Radio Wombat abbiamo Ninjaz, ci racconta dell'iniziativa promossa dalla cooperativa CAT che risponde all'hashtag Uniti si svolta. Si svolta. Sì, allora, insomma, buongiorno a tutti, salve a tutti. Insomma, ci è venuta questa idea di fare, l'idea non è certo l'asta perché ce ne sono tantissime in questo periodo, fatte da artisti, tatuatori e quant'altro. Però ci è venuto in mente di farne una non per gli ospedali, che comunque si hanno bisogno di mano, ma anche una, insomma, che sia in favore delle persone più in difficoltà con questa emergenza. Quindi chi non ha una casa, chi vive situazioni di violenza, chi ha difficoltà economica e quant'altro. Tutto questo attraverso il lavoro di CAT, la cooperativa CAT, che dall'85 si occupa di tutte queste tematiche. Ecco, io leggo dal sito che il senso dell'asta è sintetizzato nelle parole: sosteniamo chi di fronte a questa crisi sanitaria è più vulnerabile. Sostenere queste persone significa sostenere la salute della comunità intera. Chi non può, certo, restare a casa perché una casa non ce l'ha, chi vive in alloggi precari, in condizioni sanitarie inadeguate all'emergenza, che ha perso le proprie fonti di reddito e non ha reti di sostegno, chi ha una casa ma è il luogo in cui subisce violenza, chi è vittima di tratta, grave sfruttamento lavorativo, chi è stato escluso dalle accoglienze, dai percorsi di protezione internazionale, chi vive una condizione di esclusione digitale che amplifica l'esclusione sociale, chi ha difficoltà ad accedere ai servizi sociali, chi non ha accesso alle informazioni nella propria lingua. Tutto questo come si svolge? Precisamente. Allora, a livello tecnico praticamente queste aste si svolgono su Instagram, praticamente sono aperte a tutti e chiunque, sia compratori che agli artisti, i quali devono semplicemente fare un post e metterci l'hashtag Uniti si svolta. In questa maniera chi compra digitando l'hashtag può andare a vedere tutte le opere che sono state messe all'asta. Poi sotto ogni opera nei commenti si svolge l'asta vera e propria, che dura appunto 26 ore e quindi finirà martedì a mezzogiorno, e chi ha offerto di più ovviamente si aggiudica l'opera. Si parte da una base d'asta di 40 euro, si può rilanciare di 20 euro al minimo e niente, e poi l'opera si potrà, come dire, si potrà prendere, potrà essere portata quando saremo liberi di girare fondamentalmente, e quindi si spera il 3 maggio per non sovraccaricare i corrieri che già stanno lavorando veramente tantissimo. Quali saranno gli artisti all'opera? Senti, allora, proprio perché è aperta a tutti, in realtà gli artisti sapranno soltanto il giorno in cui l'asta si apre. Chiunque ha messo l'hashtag, allora si saprà la lista degli artisti. Una lista degli artisti assolutamente non c'è, non è stata fatta perché non serve. Però se vuoi ti posso dire qualche main artist che mi ha confermato, che sono ad esempio io e Exit, che siamo più o meno i promotori di questa cosa, poi H77, Miles, Freno Pesciacalli, Bue, Fone, Leo Borghi, Urto, poi altri, o magari ora non mi viene, spero di non fare un torto a nessuno, però insomma più o meno questi sono alcuni, però vedrai che saranno molti, molti, molti di più. Io penso almeno una quarantina di artisti in tutto ci saranno. Benissimo, quindi varie opere di vario tipo, sia sì. Immagino pittoriche. Sì, certo, è aperta a qualsiasi stile e a qualsiasi tipo di opera, quindi cioè, sono scultura, un quadro, insomma una qualsiasi. Ecco, i pagamenti vedo che verranno fatti attraverso il bonifico alla CAT, cioè un IBAN che è il T59G030-6909-6061-0000-0146-860€. Bisognerà mettere la causale donazione liberale campagna Uniti si svolta e poi appunto certo. Sarà recapitato il pezzo. Sì, anche perché, questo infatti non l'ho detto quando spiegavo un attimino come funzionava, che quando l'asta viene chiusa, prima che l'artista faccia l'attribuzione ufficiale dell'opera, il compratore deve mandare una copia digitale, quindi una foto oppure una copia digitale di qualsiasi genere dell'avvenuto bonifico, questo per garantire la cosa, ecco. Bene, allora come spesso ci capita di fare, noi sicuramente sosteniamo il lavoro della cooperativa CAT, che svolge, come dicevi, da tantissimi anni un lavoro sia sulla riduzione del danno, ma anche sul sostegno a tutte le realtà e alle persone che vivono particolari difficoltà, in particolare adesso, in questo periodo. Certo. Non so, qualche raccomandazione da fare, ascoltatrici e ascoltatori? Beh, appunto, partecipiamo perché penso che risolta la parte medica, tra virgolette, poi l'eredità che avremo da questa emergenza sarà più che altro economica, e quindi appunto queste persone saranno quelle che soffriranno di più di queste della parte negativa di questa cosa, appunto anche soltanto se la difficoltà non sarà economica, comunque sarà quella sociale, perché si tratta già di persone nella quale la distanza sociale è più accentuata, e quindi con questa cosa lo sarà ancora di più nel futuro. Quindi il lavoro di CAT penso che nel futuro diventerà sempre più importante, come penso lo diventerà quello dell'arte, della cultura in generale, anche se sicuramente la gente non avrà soldi da spendere in cultura e in arte, però poi gli scenari futuri sono quelli di una società un pochino che cambierà, che sarà ancora più divisa, e allora la parte culturale giocherà un ruolo fondamentale per combattere questa cosa. Ecco, ora introduci un po' questo tema, io vorrei farti una domanda un po' spinosa, visto che la cooperativa CAS è una cooperativa che esiste da tantissimo tempo e naturalmente si sostiene attraverso i fondi che molto spesso arrivano dalle istituzioni, però te come altri writers le vostre opere spesso vengono addirittura cancellate dai muri fiorentini, abbiamo visto un po' una lotta al graffitaggio. Non ti sembra una contraddizione? A Natale, certo, è una contraddizione, però sai com'è. A Natale uscì un articolo su un'importante testata, ora non so nominare, che si sparava a zero su tutta la categoria, in più tra l'altro ha deciso di mettere la mia foto nell'articolo, con un articolo veramente terribile, che non ha senso. Ecco, ora quella stessa testata poi ha chiesto scusa e ci ha fatto anche un articolo per spingere la cosa. Io penso che comunque queste cose facciano bene anche all'opinione che il pubblico, insomma l'opinione quella che hanno la maggior parte delle persone riguardo questo genere di arte, anche se devo dire grazie a Dio che negli ultimi anni un attimino la pressione si è allentata e un po' la gente ha iniziato a capire che insomma si tratta di una corrente d'arte qualsiasi, come ci sono state tante, e come al solito in Italia siamo sempre gli ultimi a recepire, no, queste cose, però già nel resto del mondo ormai la street art è più nei musei che sui muri tra un po', no? Quindi insomma piano piano questa cosa spero arrivi a tutti. No, lo spero anch'io, visto che anche il Comune di Firenze ha rilanciato questa iniziativa dell'hashtag Unity si svolta, quindi magari potrebbe essere una svolta, sì, anche sotto quel punto di vista. Sì, devo dire che spezzare una lancia comunque a una parte degli operatori del Comune che in realtà grazie a Dio un attimino ci stanno supportando, allora appunto i soldi sono sempre pochi da investire su questa cosa, però ci sono sempre molti tavoli aperti, se uno ha qualche idea può, è libero di andarne a parlare, a me è capitato più volte, gli assessori ti ricevono, sono anche ben lieti di riceverti, alcuni sono anche molto informati sulla cosa, quindi dai, piano piano le cose si stanno smuovendo, ecco. Bene, noi della radio speriamo anche tra l'altro che questo momento di difficoltà che è forte sia per le persone quanto per le imprese e soprattutto le cooperative, insomma, possa far sì che il lavoro di CAT non venga compromesso dalla crisi economica che succederà, certo, e che anzi possa essere ampliato, visto che il tessuto sociale fiorentino, ma un po' in generale, sta disgregando. Quindi sì, penso che veramente queste cose diventeranno sempre più importanti, già lo erano perché stiamo vivendo, no, una società sempre più veloce, sempre più cieca, no? Nessuno c'ha più voglia di informarsi, di uscire, no? E quindi insomma questa cosa è veramente importante, c'è la parte culturale, è veramente molto molto importante. Beh sì, poi si è messa a confronto con la parte repressiva, che invece è quello che negli ultimi anni è stato portato avanti sotto tantissimi punti di vista sulla marginalità, certo. Non possiamo che aprire le porte a iniziative come queste. Certo, certamente, certamente. Bene, allora buon lavoro. E... Grazie mille. Buon lavoro. Grazie mille, sì, io sto sempre dipingendo per altre aste, sì, mi continuo così. Magari ci sentiamo ad Asta Chiusa per sapere com'è andata. Certamente, certamente. Un saluto a voi e agli ascoltatori, grazie mille dello spazio e buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao. E rieccoci, siamo tornati, grazie a Briccobaldo per questo contributo. Ricordo il sito della CAT sul quale si può trovare tutte le informazioni, coopcat.it, l'asta inizia domani mattina. l'hashtag, hashtag è Unitisi Svolta. I fell into a ring of fire. C'è JP che mi scrive tutto bellissimo, grazie fratello, tanti cuori per te. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Bello anche questo sottofondo di Johnny Cash, ma io direi che più bella ancora è la canzone che voglio mettere adesso. Una canzone che è anche un pezzo teatrale e che mi sembra più che mai attuale. Non soltanto questa canzone, in realtà lo è l'autore in generale, incredibile, ma questa la trovo davvero, davvero tremendamente adatta al periodo che stiamo vivendo. Io sto con le cuffie ben salde e spero che ve la godrete insieme a me. The taste. Lidia, ti amo. Lidia, ho bisogno di te. Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore di vestiti. E anche lei si muove, felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due soli. Una gran tenerezza e una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare. Fatale quell'uomo, incomincia a muffire. Basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso, che non sei già più come prima, ti senti represso. La chiave tremenda, appena si gira la chiave, siamo dentro a una stanza, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica. Una minestra per tutti, tranquillanti per tutti, gli assorbenti, il cotone, i confetti falqui. Soltanto 1200 lire per purgare tutta la famiglia. Una fave. Si caga in famiglia. Case, non c'è niente di buono, appena una porta si chiude dietro a un uomo, quell'uomo è pesante, passa di moda sul posto, incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che ha odore di chiuso e di cesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma si sente lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Laura, ti amo. Laura, ho bisogno di te. Con te io ritrovo la strada, le piazze, i giovani, gli studenti. Li avevo lasciati qualche anno fa. Sono molto diversi, sono molto cambiati. Le idee sono cambiate, e i loro discorsi, e il modo di vestire. Gli esseri meno. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica, pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia, a ore pressapoco regolari. Ed esiste il bar tra un intervallo e l'altro. E poi l'amore, per fabbricarsi una felicità, come noi ora, una coppia. E ancora tante coppie. Poi ancora una porta, ancora una casa. Ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Perché abbiamo esperienze diverse, non può finir male. Perché abbiamo una chiave moderna, abbiamo una iale. Perché è tutto un rapporto diverso che è molto più avanti. Ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia. Abbracciarla guardando la porta, la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Maria, ti amo. Maria, ho bisogno di te. Ma per favore, in un hotel meublé. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti. E anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. Bisogna riuscire di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Wow, vero? Va bene, era questo l'ultimo pezzo di oggi. Siccome le due domeniche scorse ho sforato per più di mezz'ora, questa volta chiudo questa diretta una decina di minuti prima, ma non prima di avere ricordato alcune cose. La prima, che tutto quello che è stato sentito oggi, l'intera puntata, si potrà ritrovare da stanotte, insomma, sul sito della radio, oltre che i singoli contributi stralciati, e quindi potranno essere ascoltati singolarmente. Ringraziamo a tal proposito chi ha contribuito con la sua voce e la sua intelligenza a questa puntata. Ricordo anche che ci sono vari modi per contattare la radio, oltre che quello in diretta, cioè il pad. Vi potete lasciarci un messaggio dalla vostra quarantena alla messaggeria del Wombat, il link è sulla home della radio, oppure tramite posta Wombat @insiberia.net potete scriverci. abbiamo un palinsesto che viene aggiornato tutte le settimane. Ci sono alcune trasmissioni che continuano ad andare in onda in diretta, come La Fuga del Gatto, che mi precede ogni domenica, o alcune repliche come Uru, che seguirà questa diretta di oggi. Ma ci sono anche puntate speciali, contributi da Radio Amiche e così via. Ogni settimana aggiorniamo il palinsesto domenica sera, quindi da stasera lo vedrete aggiornato al solito cliccando sul bottoncione giallo palinsesto speciale della settimana, tutti i giorni diretta dalle 19. Che dire, continuate a seguirci. Wombat. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.